piccola annotazione, a Trastevere in un giorno di pioggia, in cui mi capita di incrociare in rete iniziative che sembrano riportare il clima della scrittura in versi, non so neanche se è il caso di chiamarla poesia, o forse sì, perché proprio questa ormai è la poesia, prima del 1965, prima ancora forse del 1961, forse prima ancora dei primi anni 50. Cioè prima di quando, e qui faccio di nuovo riferimento alla data del 1965, nella sua prefazione alla seconda edizione dei Novissimi, Alfredo Giuliani, l'edizione appunto per la prima volta pubblicata da Einaudi, Alfredo Giuliani fa riferimento a un certo tipo di scrittura considerata, come dire, romanticheggiante, con grandi vene e tratti di sentimentalismo, dice, afferma, che è un po' il tipo di poesia per la quale i suoi conterranei se ne uscivano con l'espressione «quantasi poet». Ecco, questa è la stagione del «quantasi poet», in cui anche iniziative e luoghi pubblici di grande prestigio vengono riservati a questa scrittura, che chiamare scrittura è veramente molto complicato, che andrebbe appunto riportata al clima pre-1965, pre-1961, forse pre-1950. Una scrittura, una versificazione da Trio Lescano, forse ancora peggio, qualcosa che gli stessi ermetici degli anni 30 forse avrebbero guardato con qualche alzata di sopracciglio.